per vedere da su, perché magari abbiamo una, si vede un po' meglio, forse ve lo faccio vedere da più, non lo so. Vabbè, comunque, quelle, le piccole strutture in terra, vedete, ci sono due strutture in terra, adesso non hanno fatto un lato per occuparsi magari, vedete una qui dietro gli alberi rossi, gli alberi gialli, e una che sta qui, sono dei pozzi, uno dei pozzi che venivano usati in passato per la raccolta degli alberi. E questi pozzi sono dei pozzi di pietra, quindi molto, molto antichi, non molto antichi, non qualche secolo penso. Sono delle belle strutture in pietra, adesso però quando andiamo giù nella piana, sono ricoperti da delle grate di ferro, perché abbiamo il problema che purtroppo gli animali selvatici spesso ci cadono dentro. E quindi per tutelare la fauna si è deciso, questo perché è un grosso problema di tutelare l'orso marsicano, che è un po' stupidello, quindi ogni tanto diciamo che si cacciano i casini, e quindi per tutelare soprattutto l'orso ma anche gli altri animali, questi pozzi sono stati chiusi con delle grate di terra, perché evitiamo, perché purtroppo è successo in passato, ci cascano dentro, poi non sono capaci di risalire. Sì, però non è un pozzo, è un vaso artificiale, tra l'altro non più sale. È successo un po' vicino a scambio, invece qualche anno fa è successo proprio in su, non c'è mai avuto niente, sempre ricordando il suo, perché è quindi era già successo qualche anno prima, insomma, perciò vi dico un po' stupidelli, accidenti a loro, e dobbiamo starci insieme, stanno a concludere. Prima non si vedono più, questa voglio farvi giusto vedere tutta questa inclusione, la zona di protezione esterna del Parco dell'Abruzzo, ed è un sito di protezione militare, è il sito del Parco dell'Abruzzo in realtà. Su quelle montagne, da quelle cime che vedete, inizia il Parco Nazionale poi, quindi qui siamo ancora in zona. Adesso mi è interessata la parte geologica, cioè c'è una carta geologica dove è ben evidente la piana, sì, a sinistra, ed è, si capisce anche dalla leggenda che siamo nel 20, siamo nell'unità calcarea dolomitica, e questa qui dove abbiamo camminato fino adesso, però le altre bancate invece sulla sinistra sono bancate sempre calcaree, però non più dolomitiche, ma sono calcaree normali e tutte chiaramente di origine marina. Cioè queste rocce sono gli antichi fondali di mare non troppo profondo, con moltissimi organismi marini fossili. Piane quasi tropicali, sì. Con altre calme. Più calme. Quindi bisogna proiettarsi, quando si proietta nel tempo geologico è chiaro che poi bisogna tenere conto di questi fattori. Quindi adesso li vediamo in montagna, ma in realtà sono stati fondali marini. Ciascuno di questi livelli che vediamo è stato in un momento specifico un fondale dove vivevano organismi, eccetera. Ne vedremo un po' di tutti i giorni di questi organismi. No, dicevo che... No, che se abbiamo bisogno di magnesio, prendiamoci la dolomia, che è il calcio magnesio, se abbiamo bisogno di tanto calcio, calcare di là, grattugiamo e ci mettiamo a mangiare. Capito? Perché la differenza tra la dolomia e la calcio, è il fatto che ha il magnesio, la dolomia, poi quella delle Dolomiti ne ha tanto, per quello è rosa rispetto a quella, che abbiamo. Anche la piana. Scusa, si vede anche dal colore un po' grigio? La dolomia, quella... Sì, direi di sì, rispetto al bianco, sì, tende più a un